Ad alta voce, Chiara Guidi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Le ultime vacanze di Meme coincisero col lutto per la morte del colonnello Aureliano Buendía. Nella casa sbarrata non c'era posto per le feste. Si parlava sottovoce, si mangiava in silenzio, si recitava il rosario 3 volte al giorno e perfino gli esercizi di clavicembalo nel calore della siesta avevano una risonanza funebre. Nonostante la sua segreta ostilità nei confronti del colonnello, fu Fernanda a imporre il rigore di quel lutto, impressionata dalla solennità con la quale il governo aveva esaltato la memoria del nemico morto. Aureliano II tornò come d'abitudine a dormire nella casa, mentre sua figlia vi passava le vacanze. Fernanda fece indubbiamente qualcosa per recuperare i suoi privilegi di moglie legittima, perché l'anno dopo Meme trovò una sorellina appena nata, che battezzarono contro la volontà della madre col nome di Amaranta Úrsula. Meme aveva terminato i suoi studi. Il diploma che la accreditava concertista di clavicembalo fu ratificato dal virtuosismo col quale eseguì temi popolari del XVII secolo nella festa organizzata per celebrare la fine dei suoi studi, festa che mise termine al lutto. Più che la sua arte, gli invitati ammirarono il suo strano dualismo, il carattere frivolo e perfino un po' infantile. Non sembrava adeguato a nessuna attività seria, ma quando si sedeva al clavicembalo si trasformava in una ragazza diversa, la cui maturità imprevista le dava un'aria da persona adulta. Fu sempre così. In realtà non aveva una vocazione definita, ma aveva ottenuto i voti più alti grazie a una disciplina inflessibile per non contrariare sua madre. Avrebbero potuto imporle lo studio di qualsiasi altra cosa. I risultati sarebbero stati uguali. Fin dall'infanzia la infastidiva il rigore di Fernanda, la sua abitudine di decidere per gli altri, e sarebbe stata disposta ad affrontare un sacrificio molto più duro delle lezioni di clavicembalo solo per non urtare nella sua intransigenza. Durante la cerimonia di fine corso ebbe l'impressione che la pergamena a lettere gotiche e maiuscole istoriate la liberasse da un impegno che aveva accettato non tanto per ubbidienza quanto per comodità, e fu convinta che a partire da quel momento nemmeno la pervicace Fernanda si sarebbe più preoccupata di uno strumento che perfino le suore consideravano come un fossile da museo. Nei primi anni credette che i suoi calcoli fossero sbagliati, perché dopo aver fatto addormentare mezza città, non soltanto nel salotto buono, ma in quanti veglioni benefici, feste scolastiche e commemorazioni patriottiche si celebravano a Macondo, sua madre continuò a invitare ogni nuovo arrivato che a suo giudizio fosse in grado di apprezzare le doti di sua figlia. Solo dopo la morte di Amaranta, quando la famiglia riprese il lutto per qualche tempo, Meme poté chiudere il clavicembalo e dimenticarne la chiave in chissà quale armadio, senza che Fernanda si preoccupasse di indagare in che momento e per colpa di chi si era persa. Meme sopportò le esibizioni con lo stesso stoicismo con cui si era consacrata allo studio. Era il prezzo della sua libertà. Fernanda era così soddisfatta della sua docilità e così orgogliosa dell'ammirazione che suscitava la sua arte che le permise sempre di avere la casa piena di amiche e di passare i pomeriggi nelle piantagioni e di andare al cinema con Aureliano II o con signore fidate, sempre che la pellicola avesse avuto dal pulpito l'autorizzazione di padre Antonio Isabel. In quei momenti di svago si rivelavano i veri gusti di Meme. La sua felicità era all'altro estremo della disciplina, nelle feste chiassose, nei pettegolezzi da innamorati, nelle prolungate combriccole con le amiche, dove imparavano a fumare e chiacchieravano di cose da uomini, e dove una volta persero la testa con 3 bottiglie di rum di canna e finirono nude a misurarsi e a confrontarsi le parti del corpo. Meme non avrebbe mai dimenticato la sera in cui entrò in casa masticando rizomi di liquirizie e senza che nessuno si accorgesse del suo turbamento si sedette a tavola dove Fernanda e Amaranta stavano cenando senza rivolgersi la parola. Aveva passato 2 ore tremende nella stanza da letto di un'amica, piangendo dal ridere e dalla paura, e al fondo della crisi aveva trovato la rara dote di coraggio che le era venuta a meno per poter scappare dal collegio e per poter dire a sua madre, con quelle o con altre parole, che poteva cacciarsi il clavicembalo in quel dato posto. Seduta a capotavola e mentre beveva un brodo di pollo che le scendeva nello stomaco come un elisir di resurrezione, Meme vide allora Fernanda e Amaranta avvolte nell'alone accusatore della realtà. Dovette fare un grande sforzo per non rinfacciare alle 2 donne le loro smancerie, la loro povertà di spirito, i loro deliri di grandezza. Fin dal tempo delle sue seconde vacanze aveva saputo che suo padre viveva in casa solo per salvare le apparenze e, conoscendo Fernanda come la conosceva e avendo fatto in modo più tardi di conoscere Petra Cotes, diede ragione a suo padre. Anche lei avrebbe preferito essere la figlia della concubina. Nei fumi dell'alcol Meme pensava con piacere allo scandalo che avrebbe scatenato se, in quel momento, avesse espresso i suoi pensieri, e fu così intensa l'intima soddisfazione della malizia che Fernanda se ne accorse. «Cosa ti succede?» chiese. «Niente», rispose Meme. «Adesso soltanto scopro quanto vi voglio bene». Amaranta restò sgomenta per l'evidente carica di odio contenuta nella dichiarazione. Ma Fernanda si sentì così commossa che credette di impazzire quando Meme si svegliò a mezzanotte con la testa a pezzi per il dolore e vomitando fiotti di bile. Le diede una bottiglia di olio di castoro, le mise cataplasmi sul ventre e borse di ghiaccio sulla testa e la costrinse a seguire la dieta e il ritiro di 5 giorni ordinati dal nuovo e stravagante medico francese che, dopo averla auscultata per più di 2 ore, era giunto alla nebulosa conclusione che si trattava di un disturbo tipico delle donne. Perso ogni coraggio, in un miserevole stato di demoralizzazione, a Meme non rimase altro che sopportare. Ursula, già completamente cieca, ma ancora attiva e lucida, fu l'unica che intuì la diagnosi esatta. Per me, pensò, queste sono le cose che capitano soltanto agli ubriachi. Ma non solo respinse l'idea, bensì si rimproverò la leggerezza di pensiero. Aureliano II si sentì rimordere la coscienza quando vide lo stato di prostrazione di Meme e si ripromise di occuparsi maggiormente di lei in futuro. Fu così che nacque l'allegro cameratismo tra padre e figlia, che liberò lui per un po' di tempo dell'amara solitudine delle baldorie e affrancò lei dalla tutela di Fernanda senza dover provocare una crisi domestica che ormai sembrava inevitabile. Aureliano II rimandava allora qualsiasi impegno per poter rimanere con Meme, per portarla al cinema o al circo, e le dedicava la maggior parte del suo ozio. Negli ultimi tempi, l'imbarazzo dell'assurda obesità, che ormai non gli consentiva di allacciare da sé i lacci delle scarpe, e lo sfrenato soddisfacimento di ogni sorta di appetiti, avevano cominciato a inacidirgli il carattere. Riscoprire la figlia gli restituì la vecchia giovialità e il piacere di stare con lei lo andava scostando a poco dalla dissipazione. Meme sbocciava in un'età fruttifera. Non era bella, come non lo fu mai Amaranta, ma in cambio era simpatica, semplice e aveva la virtù di piacere fin dal primo momento. Aveva uno spirito moderno che offendeva l'antiquata sobrietà e la mal dissimulata spilorceria viscerale di Fernanda e che in cambio Aureliano II godeva un mondo a favorire. Fu lui che decise di levarla dalla stanza dove dormiva fin da bambina e dove i pavidi occhi dei santi continuavano ad alimentare i suoi terrori di adolescente e le fece arredare una stanza con un letto regale, una grande specchiera e tende di velluto, senza rendersi conto che stava allestendo una replica della stanza di Petra Kotes. Era così prodigo con Meme che non sapeva nemmeno quanto denaro le dava, dato che era lei stessa a prelevarglielo dalle tasche e la teneva sempre aggiornata su tutte le novità in fatto di prodotti di bellezza che arrivavano nei magazzini della compagnia bananiera. La stanza di Meme si riempì di tamponi di pietra pomice per pulirsi le unghie, di arricciacapelli, di paste per lucidare i denti, di colliri per illanguidire lo sguardo e di tanti e così nuovi cosmetici e artifici di bellezza che ogni volta che Fernanda entrava nella stanza si scandalizzava all'idea che la toletta di sua figlia dovesse essere uguale a quella delle matrone francesi. Comunque, in quell'epoca, il tempo di Fernanda era diviso tra la piccola Amaranta Ursula, che era capricciosa e malaticcia, e una emozionante corrispondenza coi medici invisibili. Di modo che, quando si accorse della complicità del padre con la figlia, l'unica promessa che riuscì a strappare ad Aureliano II fu quella di non portare mai Meme in casa di Petra Kotes. Era un ammonimento senza senso, perché la concubina era così infastidita dal cameratismo del suo amante con la figlia che non voleva neanche sentirne parlare. La tormentava un timore sconosciuto, come se l'istinto l'ammonisse che Meme, solo che lo avesse desiderato, avrebbe potuto ottenere quello a cui non era riuscita Fernanda. Privarla di un amore che ormai considerava assicurato fino alla morte. Per la prima volta, Aureliano II dovette sopportare le facce scure e le virulente scenate della concubina e temette perfino che i suoi bauli portati e riportati tante volte avanti e indietro prendessero la strada del ritorno verso la casa di sua moglie. Ma ciò non accadde. Nessuno conosceva un uomo meglio di quanto Petra Kotes conoscesse il suo amante. E lei sapeva che i bauli sarebbero rimasti dove li avevano mandati. Perché se qualcosa Aureliano II detestava era di complicarsi la vita con cambiamenti e traslochi. Di modo che i bauli rimasero dove erano e Petra Kotes si impegnò a conquistare il suo uomo affilando le uniche armi con le quali non poteva disputarglielo la figlia. Fu anche quello uno sforzo inutile, perché Meme non ebbe mai l'intenzione di intervenire nelle faccende di suo padre. E se anche lo avesse fatto, sarebbe stato in favore della concubina. Non le avanzava il tempo per infastidire nessuno. Da sé si scopava la stanza, si rifaceva il letto, come le avevano insegnato le suore. Nella mattinata si occupava della sua roba, ricamando sotto il portico o cucendo sulla vecchia macchina a manovella di amaranto. Mentre gli altri facevano la siesta, si esercitava per 2 ore al clavicembalo, conscia che il sacrificio quotidiano avrebbe mantenuto calma Fernanda. Per lo stesso motivo continuava a dare concerti durante le feste di beneficenza ecclesiastiche e i veglioni scolastici, anche se era richiesta con sempre minor frequenza. Verso sera si metteva in ordine, indossava i suoi abiti semplici e infilava i suoi duri borzacchini. E se non aveva alcun programma con suo padre, andava in casa di amiche, dove rimaneva fino all'ora di cena. Era molto raro che a quell'ora Aureliano II non venisse a cercarla per portarla al cinema. Tra le amiche di Meme c'erano 3 giovani nordamericane che avevano rotto il blocco della capponaia elettrificata e fatto amicizia con ragazze di Macondo. Una di loro era Patricia Brown. Per ricambiare l'ospitalità di Aureliano II, il signor Brown aprì a Meme le porte della sua casa e la invitò ai balli del sabato, gli unici ai quali i gringos invitavano i nativi. Quando Fernanda lo seppe, dimenticò per un momento Amaranta Ursula e i medici invisibili e ne fece un dramma. «Immaginati», disse a Meme, «cosa penserà il colonnello nella sua tomba?» Stava naturalmente cercando l'appoggio di Ursula, ma la vecchia cieca, al contrario di quello che tutti si aspettavano, trovò che non c'era nulla di male che Meme partecipasse ai balli e coltivasse amicizie con le nordamericane della sua età, sempre che tenesse la testa a posto e non si lasciasse convertire alla religione protestante. Meme captò assai bene il pensiero della trisnonna e il giorno dopo i balli si alzava più presto del solito per andare a messa. L'opposizione di Fernanda resistette fino al giorno in cui Meme la disarmò con la notizia che i nordamericani volevano sentirla suonare il clavicembalo. Lo strumento uscì ancora una volta dalla casa e fu trasportato in quella del signor Brown, dove in realtà la giovane concertista ricevette gli applausi più sinceri e i rallegramenti più entusiasti. Da allora non soltanto la invitarono ai balli, ma anche ai bagni domenicali in piscina. e a pranzo, una volta alla settimana. Meme imparò a nuotare come una professionista, a giocare al tennis e a mangiare prosciutto della Virginia con fette di ananas. Tra balli, piscina e tennis si trovò improvvisamente a sbrogliarsi in inglese. Aureliano II fu così entusiasta dei progressi di sua figlia che comprò, da un commesso viaggiatore, una enciclopedia inglese in 6 volumi e con numerose illustrazioni a colori che Meme leggeva nelle ore libere. La lettura monopolizzò l'attenzione che prima essa dedicava ai pettegolezzi di innamorati o ai conciliaboli sperimentali con le sue amiche, non perché se lo fosse imposto come una disciplina, ma perché ormai aveva perso ogni interesse nel commentare misteri che erano di dominio pubblico. Si ricordava della ubriacatura come di una avventura infantile e le sembrava così divertente che la raccontò ad Aureliano II e a questi parve molto più divertente ancora. Se tua madre lo sapesse, le disse soffocando le risa, come le diceva tutte le volte che Meme gli faceva una confidenza. Le aveva fatto promettere che con la stessa fiducia lo avrebbe messo al corrente del suo primo innamoramento. E Meme gli aveva raccontato che provava qualche simpatia per un giovane nordamericano rosso di pelo venuto a passare le vacanze coi genitori. Fantastico, rise Aureliano II. Se tua madre lo sapesse. Meme gli raccontò anche che quel ragazzo era tornato nel suo paese e non aveva dato più segni di vita. La sua maturità di giudizio rafforzò la pace domestica. Aureliano II dedicava a quei tempi molte più ore a Petra Kotel. E anche se il corpo e lo spirito non erano più così disposti a baldorie come una volta, non perdeva l'occasione di far feste e di sfoderare la fisarmonica, che già aveva qualche tasto tenuto insieme con lacci da scarpe. In casa, Amaranta ricamava il suo interminabile sudario e Ursula si lasciava trascinare dalla decrepitezza verso il fondo delle tenebre, dove l'unica cosa che continuava a essere visibile era lo spettro di José Arcadio Buendía sotto il castagno. Fernanda consolidò la sua autorità. Le lettere mensili a suo figlio José Arcadio non contenevano allora una sola linea di menzogna. Egli nascondeva soltanto la sua corrispondenza coi medici invisibili che le avevano diagnosticato un tumore benigno nell'intestino crasso e stavano preparandola per praticarle un intervento telepatico